giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il sovraffollamento e il caldo rende la situazione nelle carceri italiane critica e incandescente. Lo dimostrano l'aumento delle proteste, come quella di pochi giorni fa nella casa circondariale di Trieste. Sono le conclusioni di Antigone, l'associazione che si occupa del sistema penitenziario e penale italiano, che ha appena pubblicato un dossier. Bambine filmate in bagno col cellulare in un centro estivo comunale di Farra di Sonzo. Operatore della provincia di Gorizia condannato a 2 anni di reclusione e una pena pecuniaria dopo il patteggiamento davanti al GIP. Terminata in Consiglio regionale la discussione generale sull'assestamento di bilancio. Inizia ora l'esame di una legge di bilancio dal valore record, 500 gli emendamenti, domani seduta a oltranza, prima del voto. L'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani parteciperà oggi a Trieste a un incontro organizzato dalla UIL, che ha ricevuto diverse richieste di aiuto per l'iscrizione ai nuovi albi, diventata requisito necessario per poter svolgere la professione. A Pordenone un'iniziativa del comune coinvolge i ragazzi delle scuole, previste 2 settimane di attività estive per la manutenzione del verde pubblico. Continua la preparazione dei giocatori dell'Udinese nel ritiro di Bad Kleinkirchheim in Austria, guidati da Mr. Runjajic, mentre si inseguono le voci di mercato sulle possibili cessioni. Tra i ritorni bianconero dopo un anno in prestito ai francesi dello Charleroi, il difensore Hussan Camara. Le 12:31 minuti e 45 secondi, questi titoli, buongiorno da Giorgio Beers e Lorenzo Ghellinzoni, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 24 luglio. Il sovraffollamento e il caldo estivo rendono la situazione nelle carceri italiane sempre più critica e incandescente, a dimostrarlo l'aumento delle proteste, tra le quali anche quella a cui abbiamo assistito, a cui abbiamo dato notizia l'11 luglio scorso nella casa circondariale di Trieste. Sono le conclusioni di Antigone, l'associazione che dal 1991 si occupa del sistema penitenziario e penale italiano, che ha appena pubblicato un dossier. Sentiamo che cosa contiene. Il clima all'interno delle carceri italiane è incandescente, non solo per il caldo, ma anche per le proteste che avvengono ormai quasi quotidianamente. A dirlo è Antigone, che nel dossier denuncia un sovraffollamento ai livelli di guardia. Supera cioè il 150% in oltre un quarto degli istituti penitenziari italiani. È accaduto anche nella casa circondariale di Trieste, dove il tasso di sovraffollamento è del 173,5%. Durante la protesta dell'11 luglio, alcuni detenuti avrebbero avuto accesso alle riserve di metadone custodite nell'infermeria e il giorno dopo un uomo di 48 anni è stato trovato morto nella sua cella per overdose di metadone saccheggiato dall'infermeria. Un caso che fa riflettere anche sulla circolazione della droga nelle carceri, ma anche sulla presenza di persone detenute per reati legati alla droga, che sono il 26%, mentre i tossicodipendenti rappresentano il 29% della popolazione penitenziaria. Secondo Antigone, le carceri sovraffollate sono carceri in cui si vive male, in cui si fatica a svolgere i percorsi scolastici e di formazione professionale, che contribuiscono ad abbassare il tasso di reiterazione del reato una volta usciti dal carcere, che in Italia è altissimo, siamo al 68,7%. Inoltre questa condizione rende difficile ed estremamente complesso il lavoro del personale penitenziario e, secondo i dati riportati dal Ministero, manca il 16% delle unità di polizia penitenziaria previste in pianta organica. Tra le analisi proposte nel dossier anche quella sul nuovo pacchetto sicurezza in discussione al Senato, con cui si puniscono reati minori come ad esempio la disobbedienza, resistenza passiva o accattonaggio. Qualora passasse, avremo alle porte una nuova ondata di affollamento carcerario, conclude Antigone. Trieste, Vaciucchi, GR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: bambine filmate in bagno col cellulare in un centro estivo comunale di Farra di Sonzo. Operatore della provincia di Gorizia condannato a 2 anni di reclusione e una pena pecuniaria dopo il patteggiamento davanti al GIP. 2 anni di reclusione, interdizione perpetua da scuole, centri estivi e in generale da luoghi pubblici frequentati da minori. 2 anni di interdizione dai pubblici uffici e una pena pecuniaria di 9.000 euro. Questa è la pena per un trentenne della provincia di Gorizia dopo il patteggiamento davanti al GIP Luigi Dainotti. Il capo di imputazione contestatogli durante il rito abbreviato è stato produzione di materiale pedopornografico. L'uomo è stato accusato di aver ripreso bambine tra i 7 e i 9 anni alla toilette. 5 le vittime, 4 frequentavano attività ricreative in un centro estivo di Farra di Sonzo, 1 un'attività pomeridiana di una scuola in provincia di Udine. Le indagini, coordinate dal PM Lucia Baldovin, durate mesi, sono partite dopo la segnalazione di una bambina che si è accorta del cellulare posizionato nel bagno. Rimangono indecifrati i motivi del reato. Non è chiaro che cosa volesse fare l'uomo di queste immagini. Operatore di un'associazione che si occupa di attività giovanile e difeso dall'avvocato Bancheri, al momento dei fatti non aveva nessun precedente. Gli avvocati delle parti lese hanno accettato l'esito del patteggiamento, molta rabbia e delusione invece da parte di alcuni genitori presenti. Gli avvocati delle parti civili, Vincenzo Martucci e Alice Cocchi, a loro volta accettano la soluzione ma espongono il disagio dei genitori, per i quali sarà difficile fidarsi nuovamente degli operatori a cui consegnano i figli. In sede civile potrebbe essere richiesto che non venga distrutto il cellulare dell'uomo per chiarire che fine possono aver fatto le immagini. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. E di Loris Chittaro, il cadavere avvistato in mare a circa 5 miglia al largo di Lignano ieri da un peschereccio. Il corpo dell'imprenditore di Pagnacco, 63 anni, disperso in mare da lunedì dopo essersi tuffato dalla sua imbarcazione e non essere più riemerso, è stato recuperato dalla capitaneria di porto allertata dall'equipaggio del peschereccio. Il costume che indossava e il luogo di ritrovamento hanno fatto pensare subito a Chittaro, ma la conferma è arrivata una volta che la salma è stata trasportata nell'obitorio dell'artigiano dove è avvenuto in serata il riconoscimento da parte dei familiari. Ora il magistrato disporrà l'autopsia per stabilire le cause della morte. Il 22 luglio Chittaro si trovava con la compagna a bordo della sua imbarcazione al largo di Lignano prima della tragedia. È stato denunciato per porto abusivo d'armi un 22enne rumeno residente a Trieste, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato controllato all'interno di un'auto in sosta da una pattuglia della stazione carabinieri di Barcola. All'interno della vettura i militari hanno trovato un grosso machete in acciaio con lama di 50 cm e un'accetta, subito sequestrati. Appena terminata in Consiglio regionale la discussione generale sull'assestamento di bilancio dal valore record. 500 gli emendamenti presentati, domani seduta a oltranza prima del voto. Sento dire da 6 anni che non c'è visione, eppure portiamo in aula un assestamento da 1.400.000.000 quando 6 anni fa era da 80 milioni. Prende la parola il presidente della regione Massimiliano Fedriga in aula al termine della discussione generale per rivendicare le scelte politiche alla base della manovra estiva e di fronte alle voci dell'opposizione favorevoli a una riduzione delle tasse. Fedriga difende il mantenimento dell'addizionale IRPEF perché per chi guadagna 15.000 euro l'anno il risparmio sarebbe di appena 18 centesimi al giorno. Noi abbiamo preferito potenziare il sistema di welfare, aggiunge l'assessore alle finanze Barbara Zilli. L'opposizione, gli interventi che si sono susseguiti tra ieri e oggi, pur avendo apprezzato alcuni elementi della legge, ha criticato diversi aspetti di debolezza del sistema regionale a cui, a detta dei consiglieri di minoranza, non si dà un'adeguata risposta, ad esempio su sanità, enti locali e demografia. Circa 300 gli emendamenti presentati dall'opposizione, alcuni dei quali potrebbero trovare sponde nella maggioranza, come una proposta di patto per l'autonomia per offrire supporto psicologico ai carcerati anche prima della condanna. 35 gli emendamenti depositati dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Rosaria Capozzi, che punta al ritorno di un reddito di sostegno alle famiglie in difficoltà e alla lotta contro il lavoro povero con il divieto degli appalti regionali che comportino paghe orarie sotto i 9 euro l'ora. Con la conclusione del dibattito è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, che fino a ieri sera erano 492. L'esame del testo proseguirà fino a domani con una seduta d'oltranza che potrebbe terminare anche tardi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo: cielo da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, coperto in montagna. Queste le temperature. A Trieste ci sono 28 gradi e 5 decimi, il mare è mosso con temperatura dell'acqua di 24 gradi e mezzo, 30 gradi e mezzo a Gorizia, 29 e 5 decimi a Pordenone, 27 e 5 decimi a Udine, 23 gradi a Tolmezzo, 21 sul Piancavallo, a Forni di Sopra 19 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 19, 18 e mezzo a Sappada, sul Monte Zoncoland 15 gradi e 5 decimi, 30 gradi e mezzo a Grado, a Lignano 28 e mezzo con temperatura del mare nelle due località di 26 gradi e 5 decimi. E queste sono le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime ore su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana nuvolosità variabile dal pomeriggio, quando sarà probabile qualche rovescio temporale. Anche sulle zone pianeggianti dal pomeriggio sera saranno possibili locali locali temporali. Sulla costa soffierà Borino. Domani cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione. Al mattino soffierà Borino sulla costa, poi brezza dal pomeriggio. Dormire e resistere, il presidio in programma stasera a Trieste in piazza Sant'Antonio per passare la notte e dormire all'aperto. L'iniziativa arrivata al secondo appuntamento e che mira a ripetersi ogni mercoledì è organizzata da un gruppo spontaneo di persone che chiedono l'apertura di una struttura di prima accoglienza in via Gioia per chi arriva dalla rotta balcanica. A seguito della chiusura del silos, spiegano gli organizzatori, siamo infatti registrando ogni giorno tra le 30 e 40 persone abbandonate in strada, famiglie comprese, appuntamento alle 21. L'Università di Udine si conferma al secondo posto in Italia nella classifica Censis 2024 dei 16 atenei statali di medie dimensioni, cioè da 10 a 20 mila studenti. La graduatoria annuale, giunta alla 24esima edizione, analizza tutte le università pubbliche e private per fornire una guida ai futuri iscritti. L'Ateneo Friulano ottiene una media generale di 93,2 punti dopo Trento. Settimo posto per l'Università di Trieste con il punteggio di 88,7. 6 gli indicatori valutati, confermato il primo posto di comunicazione e servizi digitali per il quarto anno consecutivo, 3 i parametri in miglioramento rispetto al 2023, cioè strutture, internazionalizzazione, borse e contributi. Sostanzialmente stabili gli ottimi indicatori di occupabilità e servizi. L'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani parteciperà invece oggi a Trieste a un incontro in programma alle 15.30 organizzato dalla UIL FPL di Piazza Vecchia. Il sindacato ha ricevuto diverse richieste di aiuto di educatori e pedagogisti per l'iscrizione ai nuovi albi, che è diventata requisito necessario per poter svolgere la professione. Terremoto nel settore educativo, soprattutto privato, e nei ricreatori comunali di Trieste, dove lavorano persone il cui titolo di studio non è più sufficiente per la mansione che svolgono. Ora la legge 55, approvata dal Parlamento ad aprile, stabilisce che i pedagogisti devono essere laureati in pedagogia e non, per esempio, in psicologia, e che per fare l'educatore bisogna avere il diploma socio-pedagogico. Nasce anche l'Ordine dei Pedagogisti, che prevede due albi, pedagogisti ed educatori professionali, e ci sono ancora 2 settimane di tempo appena per iscriversi. Promotori sono gli educatori professionali e pedagogisti abilitati della sigla APEI. Alcuni però resteranno fuori perché non hanno i titoli ora richiesti, come una trentina di educatori dei ricreatori che potrebbero essere ricollocati e molti altri che lavorano per le cooperative o i consorzi del sociale o per i privati. Così si mette a rischio l'occupazione e il regolare funzionamento dei servizi, dicono i sindacati, e chiedono una totale revisione della norma. Ieri pomeriggio una 50 di lavoratrici e lavoratori, sia del settore pubblico che privato, ha partecipato al presidio promosso da USB Trieste contro questa legge. Il presidente regionale Fitriga si è impegnato a discutere il tema in conferenza Stato-Regioni. Ritengo grave, ha detto poi l'assessora regionale all'istruzione Alessia Rosolen alla commissione della conferenza delle regioni, che questa legge non preveda una fase transitoria per riconoscere le competenze acquisite sul campo da chi opera all'interno di questi servizi da molti anni. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Una splendida fotografia che ritrae l'alba sull'isola di Grado, scattata in volo con un drone. È l'immagine che era stata pubblicata senza consenso o accordo con l'autore dello scatto, Fabio Pappalettera, all'interno del sito web di un tour operator straniero che pubblicizza escursioni in barca. Tour operator che è stato ora condannato dal Tribunale delle Imprese di Trieste a pagare una discreta somma di denaro all'autore della fotografia per violazione del diritto, appunto, d'autore di copyright. Si tratta della prima pronuncia in Italia a riconoscere a un'immagine scattata dal drone la tutela quale opera fotografica. Google Maps riporta in questi giorni un divieto di transito sulla strada che porta a Sella Carnizza dalla Varresia, che risulta ormai superato. La strada è infatti percorribile dagli Schiazzi verso Sella Carnizza, cuore del Parco delle Prealpi Giulie, fino a Uccea, il confine di Stato con la Slovenia in entrata e in uscita dalla Varresia. I gestori delle due baite hanno chiesto aiuto al Comune e al Parco per intervenire con il colosso del web per sbloccare una situazione che li sta penalizzando, dicono, in termini di presenze. Ora andiamo a Pordenone per una iniziativa del Comune che coinvolge i ragazzi delle scuole. Si tratta di 2 settimane di attività estive per la manutenzione del verde pubblico. Sentiamo. Mi aspetto di divertirmi in primis e in secondo di fare un'esperienza positiva, lavorativa. Come per Pietro, 17 anni appena compiuti, di Valle Noncello, anche per gran parte degli altri ragazzi e ragazze, 40 in tutto, questa è la prima esperienza lavorativa. 2 settimane di lavoro estivo con mansioni di manutenzione del verde cittadino, iniziativa del comune di Pordenone che ha suscitato grande interesse. Alessandro Darè, presidente Another World Foundation. Le domande ricevute dal comune effettivamente sono state numerosissime, oltre 120, tanto che il comune da un numero iniziale di 30 ragazzi che dovevano essere selezionati, facendo anche uno sforzo di risorse, è passato a 40. Verranno suddivisi in 2 gruppi, il primo gruppo inizierà a lavorare già lunedì 29 e il secondo gruppo invece verso l'ultima settimana di agosto per 2 settimane, la mattina dalle 8 alle 12. Adesso abbiamo iniziato tutta la fase preliminare perché sono lavoratori a tutti gli effetti e quindi oggi abbiamo la giornata di formazione generale specifica, domani inizieremo con le visite mediche, la consegna dei DPI, dei dispositivi di protezione, insomma è un'esperienza anche per loro per entrare nel mondo del lavoro, capire come funziona il rapporto di lavoro. Nel progetto sono coinvolti GEA e la rete cittadina di centri giovanili. Chiara Visentina è coordinatrice della Casa delle Attività di Valle Noncello. Svolgono l'attività in gruppo, un grande gruppo, quindi faranno sicuramente amicizia per chi non è già conoscente o legato da un rapporto di amicizia, e sono tutti ragazzi che o già frequentano il nostro centro giovani o i centri giovani comunque di Pordenone, oppure ne faranno parte da qui in avanti perché avranno come tutor me e i miei colleghi che li seguiranno durante tutta l'attività lavorativa. Chiara, 17 anni, di Pordenone. Quando ho saputo di questa occasione ho subito chiesto di partecipare, comunque sempre avere delle esperienze da fare, non importa l'età, non importa cosa, ma mi piace mettermi in gioco. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. È positivo il bilancio dell'Ufficio Gestione Sociale, un progetto avviato un anno fa da Ater Trieste sul fronte della progettazione, del reperimento e della formazione del personale, prima della vera e propria operatività. Circa 500 le segnalazioni alle quali l'ufficio finora ha dato risposta, con diverse situazioni risolte, per il 54% relative a relazioni tra inquilini, per il 19% alle parti comuni, per il 14% questioni dovute ad animali presenti nell'abitazione, per il 4% situazioni legate al disagio sociale, infine per il 3% problematiche riguardanti casi di degrado. Si scrive con la B, da Società Benefit a B Corp, è il titolo dell'evento in corso a Udine organizzato da Bilab Italia, una occasione per discutere di sostenibilità in Friuli Venezia Giulia. Trasformarsi per essere sostenibili, le società devono guardare al cambiamento per restituire e contribuire alla crescita economica del territorio. Da Società Benefit a B Corp, titolo di un convegno ospitato alla Fondazione Friuli di Udine, che analizza il presente delle aziende virtuose in termini di sostenibilità e guarda il futuro per dotarsi di strategie e modelli per bilanciare obiettivo economico e impegno sociale, cercando di migliorare la performance produttiva ma anche la qualità del lavoro, lo ha spiegato Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, prendendo ad esempio il 1 milione di posti di lavoro abbandonati nell'era post-Covid. Aziende del caffè, di casalinghi, banche, presenti al convegno come esempio di sostenibilità certificata B Corp. Nel mondo ce ne sono 4.500 in 78 paesi diversi, 297 in Italia, 5 in regione, ma oggi sono oltre 200 le aziende del Friuli Venezia Giulia che hanno deciso di impegnarsi in un percorso di sostenibilità a livello ambientale, sociale e di governance, cercando di raggiungere il punteggio necessario alla certificazione. 70 invece sono le società benefit che vogliono adoperarsi per generare un contributo positivo. In quest'ottica, in autunno, la Regione si doterà di una norma sul welfare territoriale. Lo annuncia l'assessore Rosolen, che spiega come oltre alla sostenibilità economica e ambientale sia necessaria anche una sostenibilità sociale, intesa come restituzione alla società e al cittadino di quanto le imprese ricevono dall'ecosistema del territorio. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una nuova cantina sperimentale per la microvinificazione, quella che sarà inaugurata oggi pomeriggio alle 17 a Udine, nella sede di Sant'Osvaldo dell'Ateneo Friulano. La cantina, di proprietà dell'azienda agraria universitaria Antonio Servadei, sarà impiegata per la vinificazione delle uve dell'azienda, per la didattica e per studi e ricerche in collaborazione con enti e aziende. All'inaugurazione saranno presenti il rettore Pinton, il direttore dell'azienda agraria Comuzzo, il direttore direttore del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali Piacentier e il presidente della Fondazione Friuli Morandini. E siamo allo sport calcio, continua la preparazione dei giocatori dell'Udinese nel ritiro austriaco di Bad Kleich-Hirkheim guidati da mister Runjajic, mentre si inseguono le voci di mercato su possibili cessioni. Tra i ritorni in bianconero intanto, dopo un anno di prestito ai belgi dello Charleroi, il difensore Hassan Kamara. Per me non c'è calcio senza tifosi, perché con tifosi c'è la TV, c'è la pubblicità, c'è tutto. Quando era il Covid l'abbiamo visto. Quindi per me rispetto questo tanto perché il calcio è un spettacolo, quindi i tifosi sono importantissimi. Quindi provo di essere cerca da loro perché la vita è difficile e quando ci vediamo le persone con gioia solo perché hanno visto giocatore, per me è un piacere. Quindi provo ad essere naturale con loro e dare quello che posso dare. Una giornata dedicata alla musica, quella di oggi a Mittelfest, la rassegna in corso a Cividale. Si comincia alle 19.30 con l'opera, il Gianni Schicchi di Puccini, eseguito dal Conservatorio Tomadini di Udine alla Chiesa di San Francesco. Alle 21.30 tocca all'euforia della musica balcanica con la prima nazionale di Brasses for the Masses, ottoni e percussioni della Jumbo Agushevi Orchestra in Piazza Duomo. Alle 22 la proiezione di Tu slegalo di Maurizio Sciarra al Curtil di Firmine. Ma da segnalare anche altri due appuntamenti. Alle 9.30 questa mattina c'è stato il forum economico culturale nel convento di San Francesco con l'associazione Mitteleuropa, che ha visto protagonista quest'anno la Repubblica Ceca, e poi alle 17 invece ci sarà il workshop circense per i più piccoli, un ordinato disordine nel tendone del Parco della Lesa. Altri appuntamenti in regione: arriva a Trieste la nuova produzione del Conservatorio Tartini, Antenne Liturgia, con musiche della compositrice serba Aleksandra Vrebalov, alle 20.30 nella Cattedrale di San Giusto. A Sesto al Reghena il sound allegro e melanconico della Max Maber Orchester in un concerto di musica balcanica, klezmer e medio orientale, alle 21 in piazzetta Burovic. A Gradisca di Sonzo per il festival Onde Mediterranee la performance teatrale dal titolo Non è la storia di un eroe con Mauro Pescio, alle 20.45 al Comunale. Continua Udine la rassegna More Than Jazz col concerto della pianista catalana Miranda Fernandez alle 21 in Corte Morpurgo. Discorsi d'amore da ascoltare e leggere al tramonto per il Rossetti a Miramare, appuntamento stasera alle 20.30 al Porticciolo per uno spettacolo di letture recitate con l'accompagnamento della musica e di passi di danza. Sul palco l'attrice Stefania Rocca assieme a Paolo Valerio. Per Carni Armonia Pontebba stasera c'è il concerto del trombonista Mauro Ottolini con la FVG Orchestra alle 20.30 al Teatro d'Italia. A Gemona ritorna invece Cinema sotto le stelle, questa sera I Diavoli Volanti, film di Stanlio Ollio del 1939, alle 21.30 al Parco di Via Dante, appunto a Gemona. E infine a Sappada comincia oggi il Festival della Montagna Parole in Vetta, inizio col ciclista Francesco Moser che si racconta tra aneddoti e ricordi alle 18 in piazzetta Offe. E alle 12.53 minuti si chiude qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatta e condotta da Lorenzo Gherlinzoni e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoici e di Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il giornale radio, come sempre alle ore 15. Grazie dell'attenzione, buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.